Odissea 2011, in viaggio verso il futuro, di Maurizio Melis. Salve, mi chiamo Howard Mirzviak, fondatore e presidente di Lacuna Incorporated. Perché ricordare una disastrosa storia d'amore? Noi di Lacuna abbiamo perfezionato una sicura ed efficace tecnica che consente l'eliminazione di tutti i ricordi dolorosi. Grazie al nostro brevetto, senza nessun intervento chirurgico, quei ricordi verranno rimossi dalla vostra memoria, consentendovi di raggiungere quello stato di pace della mente che ormai non credevate possibile. Buonasera, benvenuti a Odissea 2011. Buonasera anche a Daniela Ovadia, che è seduta qui di fianco a me. Ciao Daniela. Ciao, buonasera a te e anche agli ascoltatori. Allora, Daniela Ovadia è ricercatrice in neuroscienze, è giornalista scientifico ed è anche una grande appassionata di fantascienza, vero? Assolutamente. Ecco, quello che invece abbiamo ascoltato è un estratto da Se mi lasci ti cancello, è un film del 2004 con Kate Winslet e Jim Carrey, due attori noti per il comico, ma in questo caso il film non è poi particolarmente comico, in cui questi due personaggi si fanno cancellare a vicenda la memoria l'uno dell'altro dopo una relazione finita male. Daniela, ma tu ti faresti mai cancellare un ricordo? No, assolutamente no. Noi siamo quello che abbiamo vissuto anche nei ricordi tristi, secondo me. Avrete capito che oggi parliamo di manipolare la memoria, è un tema che la fantascienza ha scavato, ha rivoltato in tutti i modi possibili e immaginabili, tirando fuori i lati oscuri, tirando fuori anche però quelli un po' più divertenti. Insomma, non mancano i punti di vista più leggeri sull'argomento, sentite qui. Questo si chiama neuralizzatore. È un regalo di certi amici di fuori città. Questo faretto rosso isolerà gli impulsi del vostro cervello e più precisamente quelli adibiti alla memoria. Perfetto, ragazzi, datemi fuoco a schermo su tutto il perimetro con buchi a 40, 60 e 80 metri a partire da qui. Bene così, grazie. Ma che diavolo sta succedendo? Domanda eccellente. E la risposta che state cercando è qui, proprio qui. Ma chi sei tu, veramente? Veramente? Non sono che un parto della tua immaginazione. Dico sul serio, ragazzi, siete fortunati ad essere ancora vivi dopo un botto del genere. Quale botto? I giacimenti sotterranei di gas, genio. Dovete esercitarvi a prestare molta più attenzione prima di scaricare le armi da fuoco, specialmente tu. Era uno stralcio di Men in Black. Molti di voi avranno riconosciuto la voce di Tommy Lee Jones, o meglio del suo doppiatore. Il neuralizzatore, questo apparecchietto, più o meno le dimensioni e la forma di un cetriolo, è un oggettino molto interessante, tascabile per cancellare la memoria delle persone e molto utile se si vuole mantenere l'anonimato, come nel caso dei nostri uomini in nero. Emette una specie di flash che fa tabula rasa di tutti i ricordi a partire da un certo momento in avanti. E qui entriamo nel primo tema della giornata, cancellazione della memoria da un certo istante in avanti. E prima però di domandarci se non esista già qualcosa del genere, io ho chiesto a Stefano Cappa, neurologo e docente di neuropsicologia presso l'Università Vita Salute San Raffaele, che è anche uno dei massimi esperti di memoria, di spiegarci quanti tipi di memoria esistono. Ascoltate. La memoria o le memorie sono un sistema complesso, ci sono tante distinzioni. Una fondamentale riguarda la dimensione del tempo. Da un lato ci sono le memorie transitorie, la memoria a breve termine, la chiamiamo tecnicamente, che sono quelle che in sostanza si formano e svaniscono in pochissimo tempo, nell'ordine delle manciate di secondi, e che però sono fondamentali per fare tante cose. L'altra invece componente essenziale è la memoria a lungo termine, quella invece che è persistente a tempo indefinito e che ha una capacità illimitata. Questa è una distinzione sull'asse del tempo. L'altra distinzione fondamentale riguarda il tipo di memoria, e lì la distinzione fondamentale direi è tra la cosiddetta memoria dichiarativa o esplicita, la memoria di cui siamo consapevoli, e la memoria implicita, gli aspetti della memoria che non sono necessariamente accessibili alla nostra consapevolezza. Questi ricordi riusciamo comunque a recuperarli? Assolutamente, è forse la componente più importante della nostra memoria, è tutto ciò che si esprime attraverso il comportamento, non attraverso il ricordo. La famosa storia della bicicletta: hai imparato a andare in bicicletta, non si ricorda probabilmente né dove né quando, a meno che siano successe cose particolari, però se risale sulla bicicletta immediatamente là ci sono tantissimi aspetti della memoria che funzionano in questo modo. Dunque Daniele, è un po' come nei computer, è così? Assolutamente sì, funziona esattamente così, si scrivono delle memorie che come spiegava il professor Cappa dopo un po' diventano dei ricordi stabili nel nostro cervello. Quanto stabili e quanto immutabili è una delle discussioni in corso oggi, e in questo senso anche la fantascienza ha avuto molto da dire. Ecco, però questo paragone con il computer si spinge abbastanza in profondità, nel senso che questa memoria a breve termine assomiglia molto alla memoria RAM, quella che quando spegnete il computer svanisce, mentre la memoria a lungo termine assomiglia molto alla memoria di massa, cioè quella che quando spegnete il computer resta lì e la volta successiva quando lo riaccendete è rimasto. Il problema è che noi non ci spegniamo mai, neanche quando dormiamo, anzi si è scoperto per esempio che una delle funzioni del sonno è proprio quella di consolidare le memorie. Noi passiamo dalla RAM alla memoria a lungo termine proprio mentre dormiamo, quindi rispetto al computer noi siamo diversi perché non ci spegniamo mai e questo consente questo passaggio. Ecco, ma Daniela, si può cancellare la memoria? Mi riferisco appunto a cancellare, come in questo caso, gli ultimi minuti o le ultime ore? Assolutamente si può, l'abbiamo sperimentato tutti, per esempio in modo traumatico, quando prendiamo una botta in testa o ci ubriachiamo. Una bella sbornia, insomma, si dimentica. Assolutamente, si dimentica tutto quello che è accaduto prima. In questo caso semplicemente perché si uccide il neurone. Sono d'accordo anche in regia, sì. Assolutamente, si uccide il neurone che deve mantenere quel ricordo, non è una buona soluzione. Però ci sono degli esperimenti con farmaci, per esempio, che sono stati sperimentati soprattutto per cancellare ricordi dolorosi, per esempio in persone che hanno subito uno stupro, tanto per fare un esempio. Certo, quindi un po' il tema che in qualche modo emergeva proprio in apertura con questa clinica in cui si cancellavano i ricordi dolorosi. Sì, in questo caso non si cancella completamente il ricordo dell'evento, si cancella la componente emotiva dell'evento con questi farmaci e in parte anche ovviamente i dettagli collegati all'evento. Proprio perché, come dire, i meccanismi di memorizzazione sono rafforzati da un contenuto emotivo molto forte. Più il contenuto emotivo è elevato, più è facile che un ricordo si fissi, questo lo sappiamo, sia nel bene che nel male, purtroppo soprattutto nel male, e questa è la ragione per cui i ricordi molto traumatici danno origini a quella che si chiama sindrome da stress post-traumatico. E in questo caso questi farmaci eliminano una componente del ricordo e questo ha creato anche delle difficoltà, perché c'è una grossa discussione. Mm-hmm. Noi eliminando una parte di questo ricordo facciamo del bene alla vittima, perché non soffrirà in modo eccessivo di questa memoria. Nello stesso tempo immaginiamo che il colpevole venga preso e che questa vittima debba testimoniare in un tribunale, e il tribunale potrebbe ritenere la sua testimonianza non sufficientemente valida perché il suo ricordo è stato manipolato dal fatto che ha preso un farmaco. È stato manomesso, quantomeno è stato fortemente indebolito. È così, è stato indebolito dall'uso del farmaco, per cui questi farmaci esistono, vengono utilizzati e sperimentati anche nuove versioni di questo farmaco con questo quesito di fondo, cioè se sia etico e corretto e quale vantaggio ne viene alla vittima. Immaginiamo se poi l'accusato va via libero proprio perché la vittima ha deciso di prendere il farmaco. Ha un deficit di memoria. Ecco, a proposito di deficit di memoria, però ci sono anche dei farmaci che invece aumentano le prestazioni della memoria, vero? Sì, ci sono tantissimi farmaci che vengono utilizzati per il cosiddetto potenziamento amnesico, ma non sono nuovissimi. Immaginate che negli anni 60 tutti gli universitari usavano le anfetamine per passare gli esami, che hanno proprio questo effetto di tenerti sveglio e di rafforzare la memoria. Oggi ci sono altri farmaci, per esempio il famoso Ritalin che viene dato per i bambini iperattivi, aumenta la concentrazione. Che fa anche molto discutere. Fa moltissimo discutere, ma bisogna sapere che da un'indagine che è stata pubblicata sulla rivista Nature risulta che un'altissima percentuale di studenti universitari americani, ma anche di professori, fa uso di questi farmaci per aumentare le proprie prestazioni in vicinanza degli esami. Questo ha fatto molto discutere, alcuni ricercatori in neuroscienza hanno detto è un diritto dell'umanità quello di potenziare le proprie capacità, appunto proprio nel filone fantascientifico, è giusto che noi miglioriamo quella che è la nostra capacità di base attraverso la ricerca artificialmente. Altri dicono che questo non è giusto, non solo perché potrebbe dare degli effetti collaterali che ancora non conosciamo, ma anche perché crea delle disparità sociali, perché un po' come nel Brave New World di Aldous Huxley, chi può permettersi il farmaco diventerà un rappresentante importante della società perché avrà risultati migliori, chi non se lo può permettere anche economicamente resterà indietro. Odissea 2011, in viaggio verso il futuro. Torniamo in studio con Daniele Ovadia, Maurizio Melis al microfono e ci chiediamo subito: che cos'è concretamente un ricordo? Se parlassimo di un computer sapremmo rispondere facilmente: una sequenza di uni e di zeri, diciamo così, depositati sotto forma di stati di magnetizzazione, per esempio su un nastro magnetico piuttosto che su un CD. E nel caso del cervello, che cos'è concretamente un ricordo? Non è che lo sappiamo con precisione, però sicuramente nel caso delle memorie a breve termine abbiamo a che fare, anche i neuroni funzionano in un modo che fondamentalmente risponde alla legge del tutto o nulla, il neurone o scarica o non scarica. Nel caso della memoria a breve termine molto probabilmente abbiamo a che fare con dei diciamo panorami di attività in alcune zone del cervello, i neuroni che scaricano assieme e che mantengono attraverso dei circuiti riverberanti, cioè che mantengono questa attività, la traccia. È come se si rimpallassero dei neuroni un segnale e continuano esatto, a tenerlo acceso. Esatto, e poi lo fanno decadere. Nel caso della memoria a lungo termine, quello che sappiamo è che sono collegate a delle modificazioni vere e proprie del tessuto cerebrale, vere e proprie modificazioni strutturali, come diciamo, cambiamenti. Fondamentalmente quello che cambia è probabilmente soprattutto a livello delle sinapsi, ovvero dei contatti che i neuroni hanno tra di loro. Ci sono delle modificazioni collegate, per esempio, alla sintesi di proteine. Era ancora Stefano Cappa, questo grande esperto di memoria. Daniela, voglio farti ascoltare uno stralcio di Paycheck, un film tratto da un racconto di Philip Dick, che è uno dei più grandi autori di fantascienza, tra l'altro morto non ricchissimo perché gli è stato riconosciuto questo status quando insomma era piuttosto in là con gli anni. Ascoltiamo. Ok, ora posso estrarre la sua memoria dal marker fino ad oggi, al presente. Fermo, accidenti! Stia più attento a quello che fa. Se la temperatura del suo cervello sale di un grado oltre i 43, quest'uomo diventa un vegetale. Avanti, Mike. Memoria cancellata. È ripulita ora. Ebbene, seduto su una strana seggiola con uno strano casco in testa, c'è Ben Affleck in questo film, gli viene cancellata la memoria e nella scena si vede che l'esperto che guida la procedura di cancellazione distrugge dei singoli neuroni con una specie di raggio laser, ma lasciamo perdere, a cui sono associati dei singoli ricordi. È più o meno così, Daniele Ovadia? No, non è così. Nel senso che i singoli ricordi non sono associati a una singola cellula, questo ci complica un po' il compito rispetto a Philip Dick, che peraltro è un grande scrittore di fantascienza e anche il padre di tutta la letteratura cyberpunk, che sulla memoria ha avuto tanto da dire. Però è vero che, sempre sul topo, perché sull'uomo non abbiamo ancora provato, c'è chi ha cercato di fare un po' come lui e ha pubblicato questo lavoro su Science nel 2009 in sostanza hanno distrutto singoli neuroni che erano legati a ricordi paurosi nel topo in risposta al suono di una campanella, e per fare questo hanno introdotto un virus che in sostanza interferiva col funzionamento di quel singolo neurone. È la prima volta che si fa un lavoro così certosino, non è semplice proprio perché ogni ricordo è, diciamo così, archiviato in un network di neuroni, quindi noi funzioniamo con reti neuronali, non con singoli neuroni associati a un singolo ricordo. Questo rende complicato distruggerli e rende complicato anche leggerli. Ma quindi realisticamente potrebbe essere possibile distruggere dei ricordi distruggendo dei gruppi di neuroni? In teoria sì, se non che rischiamo di avere un overlapping dei ricordi, cioè una sovrapposizione insomma. Quindi distruggendo un ricordo si distrugge una parte anche di qualche altro ricordo, per esempio. È possibile, è probabile, soprattutto perché non sappiamo ancora bene come funziona l'economia della memoria. È probabile che ricordi simili condividano, come dire, informazioni comuni per evitare di avere troppe cose nel cervello. Sta di fatto che il presupposto per cancellare selettivamente dei ricordi è quello di saperli individuare preventivamente, quindi in qualche modo leggere. Da questo punto di vista mi domando quindi a che punto siamo. Siamo in grado di leggere dei ricordi? Ancora una volta Stefano Cappa ci fa il punto della situazione. Leggere dei ricordi specifici, siamo a un livello molto grossolano, ma per esempio adesso con metodi molto avanzati di risonanza magnetica funzionale, non dico che riusciamo a leggere i ricordi, però riusciamo a identificare dei panorami di attivazione che sono, diciamo, con una certa probabilità riconducibile a un certo tipo, a un ricordo abbastanza specifico. Stiamo parlando di situazioni sperimentali, ovviamente, non di situazioni di vita di tutti i giorni. Ci sono una serie di esperimenti molto recenti in cui si riesce a distinguere, diciamo che è un filone di ricerca che sicuramente farà grossi passi avanti negli anni prossimi. Daniela? È così, quello che riusciamo a fare fino adesso, come spiegava benissimo Stefano Cappa, è vedere se una persona sta ricordando qualcosa di cui però conosciamo già il contenuto. Quindi il problema è che non posso leggere un ricordo di cui io non so niente. Posso vedere se una persona, per esempio, sta ricordando se sta camminando per casa oppure giocando a tennis, per esempio. Quindi distinguere tra due cose che già conosco. Questo con la risonanza magnetica funzionale. Ci sono delle tecniche ancora molto sperimentali, come per esempio la magnetoencefalografia, che hanno una risoluzione, o almeno promettono di avere una risoluzione maggiore. In questo caso è una specie di elettroencefalografia che però lavora sui campi magnetici generati dai neuroni cerebrali e riesce a leggere questi piccolissimi campi magnetici perché usa dei superconduttori quantici. Quindi insomma, una cosa complicatissima, sembra molto più fantascienza quella di cui stai parlando molto. Tu adesso, a dire il vero, di quella di cui abbiamo sentito parlare finora. Ma qual è il problema? È andare a misurare segnali di singoli neuroni, è una cosa che tecnologicamente non riusciamo a fare in questo momento, oppure ci vorrebbero degli aghi piantati che, insomma, in vivo non si fa con gli uomini, soprattutto gli esseri umani? Ci sono diversi problemi. Il problema principale è quello di tipo temporale, cioè i neuroni si passano informazioni con una rapidità pazzesca, siamo nell'ordine dei millisecondi o anche meno. Quindi il problema è anche quello di riuscire a leggere cambiamenti così rapidi. L'altro problema è quello di capire che cosa si stanno dicendo. Cioè io posso capire che due persone si stanno parlando, ma se non capisco la loro lingua non sono in grado di conoscere il contenuto della loro conversazione. Allora io posso, come ho detto prima, sapere che una persona sta ricordando, ma che cosa sta ricordando, questo non lo so. Daniela, andiamo verso la chiusura. Voglio introdurre un ultimo tema prima di lasciarci, con una tranche presa da Atto di Forza, Total Recall, film che porta sul grande schermo un altro dei racconti di Philip Dick incentrato sulla memoria, con protagonista Arnold Schwarzenegger. Ascoltiamo. Piacerebbe sciare nell'Antartico, ma siete sepolti sotto una valanga di lavoro? Avete sempre desiderato scalare le montagne di Marte, ma al momento vi trovate in una valle di lacrime. Allora, venite alla Recall Incorporated, dove potrete acquistare le memorie della vostra vacanza ideale, meno cara, più sicura e migliore di una vacanza reale. Non lasciate che la vita vi lasci indietro. Chiamate la Recall per le memorie di tutta una vita. Senti Daniela, forse se c'è una cosa peggiore di farsi cancellare la memoria è farsene mettere una finta, non so cosa ne pensi. Accade spessissimo, molto più di quanto si creda, perché è vero che è molto difficile inserire nella memoria di qualcuno uno specifico ricordo, un po' come fa Leonardo DiCaprio nel film Inception, per esempio. O come per si fa visto in questo film, ecco, diciamo due cose su questo film. Il protagonista subisce una sorta di espianto di memoria, una sostituzione con una memoria totalmente finta. Lui ricorda tutta una vita che però non ha mai vissuto, finché scopre in qualche modo il trucco, ma scopre anche che era un personaggio terribile, quindi non vuole assolutamente rientrare in possesso della propria vecchia memoria, proprio perché diventerebbe un'altra persona. Beh, noi quello che invece possiamo fare, e ci accade, ed è stato fatto anche sperimentalmente, è avere dei falsi ricordi. Per esempio sono state ricostruite con Photoshop delle foto di famiglia di alcuni studenti e poi è stata chiamata una nonna o una zia a raccontare un falso ricordo. Ebbene, la maggior parte delle persone, quasi tutte, dopo un po' dicono certamente che mi ricordo, che ne so, quel picnic con la zia, me lo ricordo benissimo, o anche una fotografia. Cioè anche una foto. Insomma, il paradosso è che la cosa che ritenevamo più complicata, cioè quella di innestare un ricordo ad hoc, in realtà forse è quella più semplice. Beh sì, è molto, è comportalmente molto semplice. Anche se con metodi insomma molto più semplici. E c'è quel problemino, tra l'altro, con cui vorrei chiudere. Se vivessimo in una società nella quale si può manipolare, cancellare facilmente la memoria, io credo che vivremmo costantemente nel dubbio. Sempre da Men in Black, protagonista sempre questo strano oggetto, il neuralizzatore. Ciao Daniela, grazie di essere stata con ciao, noi. Ciao a tutti. Ci sentiamo domenica prossima. Buona continuazione qui su Radio 24. Ha detto devi evitare la guerra. La galassia è sulla cintura di Orione. È chiaro, altrimenti come si spiegano i tassisti di New York? L'altro giorno ero su un taxi. Ma che cavolo ce ne fai con quel coso lampeggiante? Ma la vuoi piantare? Che c'è? Quel coso le farà venire un cancro al cervello se non la smetti. Non le ha mai fatto niente finora, dobbiamo chiudere tutte le porte. I servizi speciali arriveranno da un momento all'altro. Come non le ha mai fatto niente? Ma quante volte gliel'hai sparaflesciato a quella povera donna? Un paio. A me me l'hai mai sparaflesciato? No. Guarda che non sto scherzando, K, me l'hai mai sparaflesciato? No.